in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci con la rassegna stampa dei giornali oggi in edicola. È curioso perché non accade spesso, ma oggi i principali quotidiani hanno tutti titoli molto diversi tra loro, anche se poi naturalmente all'interno ci sono argomenti e temi che si ripropongono. Il Corriere della Sera, per esempio, apre su questa inchiesta fatta da Fiorella Sarzanini sul rapporto della Guardia di Finanza 2013. Il titolo è 3 miliardi rubati allo Stato. Corruzione e abusi denunciati 5.000 dipendenti pubblici, dagli appalti truccati alle consulenze fittizie. Naturalmente sono dati che fanno rabbrividire, trovate tutto alle pagine 2 e 3. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo, perché poi l'argomento è in parte collegato, perché di truffa allo Stato comunque si tratta, la rubrica di Aldo Grasso, Padiglione Italia, e si riferisce a un commento alla notizia arrivata in settimana di tutti quegli studenti a Roma, ma ce ne sono sicuramente in tantissime altre università. Mi ricordo la mia esperienza all'Università Bocconi con appunto e conoscevo persone che avevano atteggiamenti simili, e riguarda appunto le dichiarazioni fasulle degli studenti per avere una tassa universitaria più bassa di quella che in realtà dovrebbero pagare se veramente dichiarassero il reddito che hanno. Ve lo leggo perché credo che sia veramente indicativo, e scritto, mi è piaciuto molto questa rubrica di Aldo Grasso. Si intitola "Quell'universitaria in Ferrari, figlia di 13 inutili anni di scuola". La studentessa con la Ferrari vive in una villa con piscina, neanche accatastata, e quando vuole ha a disposizione la Ferrari di papà per scorazzare nella capitale. Studia all'Università di Roma 3, verosimilmente indossa abiti firmati, sogna un futuro ancora più roseo, si chiama Sara o forse Flaminio, forse Martina, il nome non importa. Come si dice a Roma, simbolo de che? Di malcostume. Per beneficiare di una riduzione sulle tasse universitarie aveva dichiarato un reddito ISEE, indicatore situazione economica equivalente, una mostruosità demagogica introdotta dall'Ulivo nel 1998, di appena 18.801 euro. Una sua collega di Tor Vergata aveva certificato poco più di 14.000 euro, dimenticando di denunciare un conto in banca di 600.000. Un'altra aveva nascosto 70.000 euro. Sono solo tre dei 340 casi di irregolarità scoperti nel 2013 dalla Guardia di Finanza sui 546 controlli effettuati sulle autocertificazioni degli studenti iscritti ai tre atenei. Con l'autocertificazione, un atto di responsabilità sociale in un contesto dove però tutto è dovuto, questi bari godevano senza averne diritto di privilegi come alloggi, esenzioni dalle tasse, agevolazioni su trasporti e ristorazione. Risparmiavano i 1.700 euro di retta universitaria e potevano concorrere per una borsa di studio da 26.000 euro. La studentessa con la Ferrari è la storia di ragazzi e ragazze che hanno imbrogliato, sottraendo indebitamente alcune agevolazioni a colleghi onesti, bisognosi e magari più preparati. Hanno leso il principio fondamentale del diritto allo studio e della meritocrazia, ma anche una storia di una grande sconfitta. La scuola serve a qualcosa? Per arrivare all'università c'è un percorso pedagogico di 13 anni. Hanno senso tanti anni di insegnamento se arrivati al livello più alto degli studi questi studenti sono pronti a truffare? Si dirà, non bisogna generalizzare, e poi la colpa principale è delle famiglie, di uno Stato populista. Vero, ma questo significa che di educazione civica la scuola ne fornisce poca, se i figli non sanno rendersi indipendenti e ribellarsi ai padri su quel minimo di eticità su cui si fonda la convivenza civica. Meglio ingannarsi che ingannare. E naturalmente sono notizie che poi si tengono, come si dice, con tutto lo scandalo dei rimborsi dei partiti nei consigli regionali, no? Sapete, anche nella regione Piemonte, con il presidente Cota che metteva in nota spese gli M&M's e le Pull Mall. Ne abbiamo parlato tanto questa settimana a Radio 24 e se ne continua a parlare sui giornali di oggi, perché questi rimborsi e spese veramente gridano vendetta, così come grida vendetta la studentessa che ha la Ferrari ma non dichiara il suo reddito per non pagare la retta universitaria e per avere tutti gli altri benefici. Siamo alla prima pagina della Repubblica, qui il titolo, come dicevo, completamente diverso, anche perché si riferisce a un'intervista esclusiva della Repubblica. Il titolo è "Renzi, ultimatum a Letta". C'è infatti un'intervista, una lunga intervista di Claudio Tito, che poi trovate a pagina 3, che viene riassunta così: le tre condizioni per far durare il governo, il PD lascerà la maggioranza. C'è poi un catenaccio, come si dice in gergo, cioè la riga che appare subito sotto il titolo, c'è questo allarme IMU, che vedremo anche su altri giornali, cominciare dal Sole 24 Ore, perché tutti, nessuno, né i commercialisti né noi comuni cittadini, ancora capiamo quanto e quando dovremo pagare per questa tassa che nessuno riesce di fatto ad abolire. Naturalmente sulla prima pagina di quasi tutti i giornali c'è o una fotonotizia o un richiamo a quello che è successo ieri, l'avete sentito nel GR. Con questa tragedia durante il Sick Day, il giorno per ricordare con una corsa il Simoncelli che è morto un anno fa, e per ricordarlo cioè, si è stata organizzata questa corsa, e in questa corsa il destino ha voluto che morisse Doriano Romboni, un ex pilota di 44 anni che in realtà voleva proprio celebrare il giovane pilota morto un anno fa. Passiamo alla prima pagina della Stampa, come vi dicevo titolo ancora diverso, in questo caso è legato a un'intervista anche qui della Stampa al ministro dell'economia Saccomanni, il virgolettato che titola l'intervista: ora le imprese investano. I segni di ripresa ci sono, dice il ministro, dall'estero si torna a scommettere sull'Italia, ora è il nostro turno. Sull'IMU lo ha ribadito, lo ha detto anche nei giorni scorsi, si tratta di uno sgravio temporaneo, cioè nessuno ha mai pensato evidentemente che l'IMU potesse essere abolita per sempre, solo una tantum quest'anno, e vedremo che poi probabilmente non lo sarà, ma l'obiettivo è detassare il lavoro. La fotonotizia della Stampa è dedicata al Torino Film Festival, essendo la Stampa il quotidiano principe di Torino, titola la Stampa il trionfo dell'ironia, vince infatti il film messicano Club Sandwich e a PIF il premio del pubblico. Sapete, Piff è quel regista che ha scritto quel film sulla mafia che è molto ironico, ma poi come sempre l'ironia può anche nascondere, anzi senza nascondere può raccontare forse meglio di un film troppo serio le contraddizioni e la realtà della mafia in generale. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che come vi dicevo si concentra sull'IMU. Il titolo è Mini IMU, il governo prepara il rimborso. Sarebbe un'operazione da 150 milioni, è confermato però il pagamento al 16 gennaio. Per i comuni gli aumenti sono possibili fino al 9 dicembre e dopo quella data nessun comune dovrebbe più avere il diritto di cambiare le regole sull'IMU. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche il consueto intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che si rifà all'esortazione di Papa Francesco in tema di economia, no all'economia dell'esclusione. Vi leggo le prime righe. Dopo la riflessione sulla fede proposta nell'enciclica Lumen Fidei, Papa Francesco presenta una sorta di manifesto programmatico del suo pontificato nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, pubblicata poco più di un anno dal Sinodo sulla nuova evangelizzazione e a conclusione dell'anno della fede, che appunto si è concluso il 24 novembre scorso. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata dalla gioia e a indicare per il cammino e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. E l'articolo continua poi a pagina 15. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo inoltre il consueto, anche qui appuntamento della domenica, con la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che oggi è dedicata a Finmeccanica, con il solito esame attentissimo che fa appunto Vittorio Carlini di un bilancio di un singolo titolo quotato. Questa volta è il colosso Finmeccanica. C'è tempo ancora prima della pausa per il titolo del Messaggero, anche qui ancora diverso perché in questo caso l'intervista è al governatore di Banca Italia Visco, ancora rischi per l'euro. Il governatore dice troppe resistenze nella costruzione dell'Europa. I segnali di ripresa sono evidenti, come dice anche Saccomanni, ma sul lavoro le previsioni sono difficili. Stop ai tagli orizzontali. La foto è dedicata anche in questo caso a quello che è successo ieri a Latina, appunto vicino a Roma, con la morte di Romboni che correva per ricordare Simoncelli. La prima pagina dell'Avvenire ancora diversa e super interessante, perché il titolo è Roghi e tumori, legame mortale. È un'analisi di quello che succede alle persone che vivono nelle aree inquinate. Lo spunto è naturalmente quello che sta succedendo a Napoli, ma sono molti altri casi in Italia dove appunto scorrette pratiche delle aziende che inquinano dove non dovrebbero si associano poi malattie, soprattutto nei bambini. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la pausa sul meteo. In primo piano. Bentornati da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi segnalavo quella di Avvenire, dove ci sono tre notizie che non ho trovato altrove. Questa che prende spunto dal fatto che martedì arriverà il decreto per inasprire le pene contro chi avvelena i terreni, il titolo appunto Roghi e tumore, legame mortale. Poi c'è un'altra notizia che è quella dell'allarme che ha lanciato l'ONU sull'uso dei robot killer, e l'ONU propone una messa al bando di queste macchine che appunto uccidono senza naturalmente sapere chi hanno davanti. E poi questa veramente tragedia già dimenticata delle Filippine, del tifone che si è abbattuto sulle Filippine. A pagina 20 c'è questo appello della CEI per l'emergenza delle Filippine, che sono 4 milioni di persone colpite da questo tifone. Ci sarà oggi una colletta nelle chiese di tutta Italia. Prima pagina del giornale, rischio patrimoniale, la sinistra delle tasse, d'accordo tutti e tre i candidati. Sapete, c'è stato questo faccia a faccia dei tre candidati su Sky, dei tre candidati alle primarie del PD, Matteo Renzi, Gianni Cuperlo e Pippo Civati, e secondo appunto il giornale tutti e tre i candidati sono d'accordo, ma non è, in realtà l'hanno detto chiaramente, sono solo diversi, non sono d'accordo sui tempi, però appunto tutti e tre hanno detto in questo momento di emergenza sì, siamo d'accordo sull'introduzione di un qualche tipo di patrimoniale. L'editoriale, come sempre la domenica, è di Giuliano Ferrara, il dovere di Napolitano è un ribaltone, Presidente ci faccia votare. Sapete che c'è all'orizzonte, dopo le primarie che si terranno domenica prossima, una verifica in Parlamento, perché dopo la scissione di Forza Italia sostanzialmente, e magari anche alla luce del risultato delle primarie, secondo Ferrara sarebbe non un passaggio tecnico ma sarebbe l'occasione auspica Ferrara per sciogliere il Parlamento e tornare a votare. Prima pagina di Libero, IMU torna alla prima rata, lo Stato si fa il condono, c'è un elenco alle pagine 2 e 3 di Libero di tutti i comuni in cui si pagherà e la spiegazione del titolo che vi ho letto è che Libero spiega come per gli edifici pubblici sia in arrivo una sanatoria, quella sanatoria, scrive Libero, che è negata ai cittadini. Prima pagina dell'Unità, la maledizione dell'IMU, quindi vedete che appunto un po', non so, curiosamente tutti i titoli dei grandi giornali erano diversi, e poi invece i giornali più schierati sono tutti concordi su questa questione dell'IMU. La maledizione dell'IMU, appunto l'Unità, a rischio il pagamento di gennaio, per i CAF i calcoli sono molto complicati, e per coprire il fatto che la prima rata non è stata pagata scatteranno poi una serie di aumenti. Ieri il segretario della CGIL Susanna Camusso ha detto un po' in controtendenza forse sarebbe meglio ripristinarla. Dalla prima pagina del Manifesto, un futuro verde acido, e questo titolo è il riferimento a un'intervista, anche qui un'intervista, oggi è veramente il giorno delle grandi interviste che danno il titolo alle prime pagine dei giornali. In questo caso l'intervista è a uno storico ecologista, Daniel Cohn-Bendit, che benedice le larghe intese dal basso con la destra perché dice è l'unico modo per cambiare l'Europa anche sui temi dell'ambiente. La prima pagina della Gazzetta è naturalmente tutta dedicata a quello che viene definito il lodo Berlusconi, cioè questo compromesso trovato, avete sentito anche nel GR, perché ci siano due amministratori delegati del Milan, Adriano Galliani, che quindi non se ne andrà, e Barbara Berlusconi, che è probabilmente l'amministratore delegato, insomma, del futuro, è il futuro del Milan. Poi naturalmente c'è quello che chiamiamo un palchettone, cioè un grande spazio sopra il titolo principale, intitolato Tragedia al Sick Day, Romboni muore in pista Latina, sfidò Biagi e Capirossi nella classe 250. Il Fatto Quotidiano, anche qui il titolo è sull'IMU, IMU e giustizia, le manovre per resuscitare il Caimano. Vi segnalo l'editoriale di Marco Travaglio che si intitola Gli Apoti, che un po' risponde a tutte le persone che nei giorni scorsi hanno detto ora che Berlusconi non è più in Parlamento e vedremo quale, insomma, che futuro politico si sceglierà o si costruirà. Giornali molto schierati come Il Fatto, chiunque pensasse che il grande nemico era Berlusconi, non avranno più da scrivere, non avranno più di che occuparsi, e Marco Travaglio qui spiega che invece secondo lui un giornale come Il Fatto Quotidiano, che non vuole fare sconti a nessuno, e questo credo sia abbastanza vero, ha sempre attaccato sia Berlusconi che il centro-sinistra, un giornale come Il Fatto appunto potrà continuare a occuparsi delle notizie di cui gli altri non si occupano. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, il giornale di Genova, perché oggi è il giorno del V-Day di Grillo. Il Secolo XIX dedica due pagine a questo V-Day, 6, il titolo in prima pagina è Grillo sfida il gelo, 100.000 a Genova, ma è anche l'occasione per il secolo XIX di fare un sondaggio tra i leader politici della Liguria e l'esito è che i liguri bocciano i loro leader, Burlando, presidente della regione, Doria, presidente della provincia di Genova, tutti bocciati, appunto hanno un 5 in un punteggio di da 1 a 10. Passiamo alle pagine interne dei giornali, che sono anche ricche di approfondimenti. Il Corriere della Sera, per esempio, nella sezione degli esteri, ha un articolo di Lorenzo Cremonesi, inviato nel Kurdistan iracheno, che racconta il dramma delle giovani curde in Siria, noi prede dei miliziani di Al-Qaeda. I racconti raccolti da Lorenzo Cremonesi nei campi profughi ci restituiscono questa realtà agghiacciante di 6.000 donne violentate dall'inizio della guerra. Sono comunque 60.000, ci ricorda il Corriere, i profughi curdi arrivati in Iraq da agosto, parte di un popolo di 200.000 rifugiati. Sapete che il Kurdistan, che è quest'area, è una nazione senza, è un paese senza una nazione senza un paese, insomma è distribuito in realtà in un'area, lo fa vedere anche in una mappa il Corriere, divisa tra Turchia, Iraq, Siria e Azerbaigian e Armenia, è appunto questa nazione che non trova pace, non trova un riconoscimento politico. Dalle pagine interne del Corriere un articolo che viene segnalato in prima pagina, e la notizia peraltro la trovate anche su altri quotidiani, ed è la storia del fondatore di Panini, Umberto Panini, che è morto e lo ricorda Beppe Severnini, il sognatore delle figurine e quell'Italia felice con poco. Addio a Modena, all'ultimo dei fratelli Panini. Dal Corriere vi segnalo anche questo divertente articolo di Maria Luisa Agnese sui ritardatari. Lo spunto è il ritardo di Putin, che si è presentato con un'ora di ritardo all'incontro con il Papa. Putin e i diari di Kafka, perché anche Kafka era un ritardatario, autoconfessato, l'eterna tentazione dei ritardatari cronici. Dalla Repubblica, pagina 3, vi segnalo come appunto l'intervista a Matteo Renzi, vi leggo le prime e le ultime domande che gli fa Claudio Tito. Il 9 dicembre farà cadere il governo? Ma che, risponde Renzi, sarà l'occasione per risolvere i problemi, se non lo si fa siamo finiti. Nel senso che Letta sarebbe finito? Nel senso che all'opposizione c'è una tenaglia composta da Berlusconi e Grillo, il cavaliere la campagna elettorale la sa fare, se il governo è tentennante la nostra marcia verso le elezioni si trasformerà in un corteo funebre, dobbiamo cambiare verso. E l'ultima domanda, tra una settimana le primarie, paura di un flop astensionismo, andranno a votare meno persone rispetto all'ultima volta, l'astensionismo cresce nel paese e cresce nel PD, ma se anche andasse a votare 1 milione di persone sarebbero le primarie più grandi d'Europa, non nascondo che sarebbe bello arrivare a 2 milioni, per questo sabato metteremo 1.000 tavolini in 1.000 piazze italiane, diremo che stavolta si può voltare pagina. Vi segnalo dal Sole 24 Ore, per chi appunto, anzi tutti noi abbiamo a che fare con questo, quasi tutti, chiunque possiede una casa, con la questione dell'IMU, quindi a pagina 3 un approfondimento con tutte le informazioni che finora abbiamo e che Eugenio Bruno e Marco Mobili ci raccontano. Mini IMU, si paga a gennaio, poi il rimborso. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'articolo su Moody's, che ha riabilitato la Grecia, Atene premiata per l'avanzo primario dopo 10 anni di deficit. Quindi l'austerità che così tanto pesa sui greci, sugli spagnoli, naturalmente anche su di noi, poi alla fine forse paga. Vi segnalo poi da pagina 22 un'intervista a Remo Ruffini, e vi dico per correttezza che l'intervista l'ho fatta io e non ve la segnalo certo perché l'ho fatta io, ma perché Remo Ruffini, presidente e direttore creativo di Moncler, racconta veramente una bella storia di un'azienda italiana che ha comprato un marchio francese, perché Moncler è un marchio francese al contrario di tanti marchi, di tanti gruppi francesi che fanno shopping in Italia. Il 16 dicembre Moncler andrà in borsa, è appunto una bella storia di un'impresa, di un rilancio di un marchio, una storia di un imprenditore molto coraggioso e appunto è anche un segnale di ottimismo. Il titolo è Milano non mi preoccupa, l'Italia sì, per Ruffini una soluzione un po' per rilanciare anche l'Italia è quel turismo, quella miniera che è il turismo, una miniera poco sfruttata, partendo dalle piccole città, perché le grandi città naturalmente paradossalmente paradossalmente non hanno bisogno di grande promozione, ma naturalmente racconta anche tante altre cose. Dalle pagine interne della Stampa, ed è l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi prima della pausa per gli aggiornamenti sul traffico, la notizia è che da giovedì c'è questa libertà di cura in tutta l'Unione Europea. Ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse. Da giovedì appunto si potranno scegliere anche ospedali oltre confine. Ecco come fare, quindi una guida pratica e con quali rimborsi. C'è questa migrazione spesso in Italia, all'interno dell'Italia, dalle regioni per cercare l'ospedale migliore. Ora si potrà fare la stessa cosa anche scegliendo ospedali fuori dall'Italia, purché siano nell'Unione Europea. E come vi dicevo, ci fermiamo ancora un attimo per le informazioni aggiornate sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Qui ci dedichiamo un po' agli approfondimenti, soprattutto ai supplementi culturali che escono la domenica. Dall'Avvenire vi segnalo questo articolo di Giacomo Gambassi che si intitola Pendenti, non solo Pisa, il mondo è pieno di torri inclinate. E appunto Gambassi ci racconta come non esista solo la famosa torre pendente di Piazza dei Miracoli nella città toscana, ma ce ne siano tanti altri di edifici pendenti. Per esempio in Russia c'è il villaggio delle Icone alle porte degli Urali, a Neviansk, che ospita un edificio di 57 metri che pende di oltre due, ma anche il Big Ben a Londra, le due torri di Bologna e ben cinque campanili di Venezia sono nel Guinness dei primati, e non mancano neanche gli USA e la Cina, anche se il grattacielo più storto del pianeta è ad Abu Dhabi, dove c'è anche il grattacielo più alto del pianeta, che è la torre dove c'è anche l'hotel e le residenze firmate da Giorgio Armani. Ma veniamo al domenicale. Tra l'altro il domenicale, che poi si chiama la Domenica del Sole 24 Ore, ma tutti un po' così amichevolmente chiamano il domenicale i suoi lettori, compie 30 anni, perché il primo numero uscì esattamente appunto 30 anni fa, come ricorda Roberto Napoletano, il direttore del Sole 24 Ore e anche di Radio 24, sulla prima pagina della Domenica di oggi. La Domenica compie 30 anni, nel 1933 la scommessa sulla cultura in Italia, oggi la scommessa di portarla nel mondo. Tra l'altro sapete, qui al Sole 24 Ore il 21 novembre scorso ci sono stati gli stati generali della cultura con cinque idee nuove rispetto a quelle già lanciate nel manifesto della cultura del Sole 24 Ore lanciato nel febbraio 2012, altre cinque idee per promuovere la cultura che, oltre al turismo naturalmente, o magari abbinata al turismo nella forma del turismo culturale, è una grande risorsa per l'Italia e anche per la nostra economia. Dalla prima pagina del domenicale vi segnalo come sempre la rubrica di Gianfranco Ravasi, che come sapete prende spunto da una citazione che Ravasi sceglie e poi commenta. La citazione è di Woodhouse, P.G. Woodhouse, che è uno scrittore inglese. Sembra impossibile, ma tutto quello che c'è di divertente nella vita dicono che sia immorale oppure illegale. Al minimo fa ingrassare. Woodhouse è stato un prolifico e non eccelso scrittore inglese, morto in America nel 1975, ove viveva da anni perché accusato falsamente di essere stato collaborazionista coi tedeschi. Questa sua battuta del romanzo La ragazza in blu reagisce al puritanesimo vittoriano. Il moralismo è una malattia della vera morale e l'ipocrisia è la sua ancella. La tradizione giudaica affermava che alla fine della vita saremo giudicati anche sui piaceri leciti che abbiamo respinto. Detto questo, bisogna però anche sottolineare che il motto è proibito proibire è solo una buttada un po' stupida. Ogni società uscita dalla caverna ha bisogno di un equilibrio tra i soggetti e di una base riconosciuta, anche se variamente definita. Chesterton perciò ammoniva: non abbattere mai una palizzata prima di conoscere la ragione per cui fu eretta. E nella sua rubrica Memorandum, anche questa che esce ogni domenica sulla prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, vi segnalo appunto l'intervento di Roberto Napoletano: non facciamoci passare accanto il treno veloce della rivoluzione digitale. E è un commento a un convegno ad Aspen a cui è stato il direttore, dell'Aspen Institute a Roma, dove si è parlato appunto di innovazione digitale. A proposito di innovazione e di scienza, vi segnalo l'approfondimento a pagina 31 sulle staminali. Sapete, questa questione della cura stamina che però è scientificamente non provata, e Michele De Luca ci racconta la verità sulle staminali, questo metodo scientifico di quelli che vengono definiti ciarlatani di stamina. Pensate quante persone malate sono falsamente, appunto, sono indotte ad avere false speranze da questo metodo o da altri metodi. Il metodo scientifico possiede gli anticorpi per proteggersi dai venditori di illusioni. non seguirlo è criminale, ci spiega appunto Michele De Luca in questa pagina del Sole 24 Ore, con anche un intervento sulla sperimentazione animale. Ieri ci sono state due manifestazioni. La dottoressa Luisa Mirone spiega le opinioni, i fatti e le cure, e poi un commento di Gilberto Corbellini su questa questione della necessità comunque di continuare con la sperimentazione animale finché non si trovi un metodo migliore per testare cure e farmaci che poi sono destinati all'uomo. E vi segnalo anche lo speciale Teatro alla Scala, perché mancano pochissimi giorni alla prima della Scala, l'appuntamento culturale forse più importante dell'anno per Milano e l'appuntamento della lirica forse più importante dell'Italia. Quest'anno si aprirà con Toscanini, quindi Toscanini e la Traviata, e con un articolo di Harvey Sachs: il maestro aveva una venerazione per Verdi ma un rapporto difficile con l'opera che aprirà la nuova stagione Scaligera, era insoddisfatto dei risultati, si tirava con le interpreti. Ecco, scusatemi, naturalmente la Traviata è di Verdi, il ricordo è di quella Traviata, di quella Violetta storica, diretta appunto da Arturo Toscanini, uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia. A proposito di innovazione digitale, una buona notizia: a pagina 30 a pagina 49 della Domenica, i nostri tesori in rete. L'Italia è tra i paesi fondatori di DARIA, cioè Daria, la più importante infrastruttura digitale europea nel settore delle scienze umane, l'articolo di Riccardo Pozzo. A proposito di supplementi domenicali, la lettura del Corriere con una copertina disegnata apposta da Antonio Recalcati. Qui vi segnalo all'interno la storia raccontata da Alessandra Farkas, inviata del Corriere a New York, su Fiskaton, questo editor che viene definito l'uomo che sussurra agli scrittori, ha salvato Carter. E appunto l'editor, sapete, questa figura che aiuta lo scrittore a tirare fuori il meglio da un manoscritto, a migliorarlo, e ci sono figure che restano nell'ombra, ma che poi si scopre magari a molti anni di distanza, che sono sicuramente corresponsabili, diciamo così, del successo di un libro o addirittura di un autore. Dalla pagina di Repubblica vi segnalo un articolo di Benedetta Tobagi che si intitola Zalonismo, naturalmente è riferito a Checco Zalone, campione di incassi con il suo ultimo film. Fa innamorare gli opposti, smonta snobismi sociali e culturali, non rinuncia all'happy end, fa ridere senza sensi di colpa. I segreti di Checco, un successo non solo comico. Dalla Repubblica poi vi segnalo anche un interessantissimo reportage di Attilio Bolzoni da uno dei tanti muri che ancora resistono in Europa. È un muro che segna un confine tra Grecia e Turchia, e Attilio Bolzoni, il cui reportage tra l'altro credo sarà in rete oggi sul sito di Repubblica, ci ricorda ancora quanti muri nel mondo ancora esistono, quanti addirittura sono in costruzione. Per esempio ce n'è uno, naturalmente io non lo sapevo, tra Uzbekistan e Kirghizistan, da Botswana e Zimbabwe, Iraq e Kuwait, insomma questi muri che sono veramente simbolo di una divisione che non vorremmo più. E Paolo Corleoni dalla regia, che ringrazio per il suo aiuto, mi fa segno che purtroppo non c'è più tempo. Come ogni domenica vi raccomando, andate a comprare i giornali, la domenica sono forse ancora più ricchi di spunti che negli altri giorni. Una buona domenica da Giulia Crivelli.